non va bene, perché se quando si scherza con la radio va bene, ma quando si inizia a ricevere queste cose, allora la cosa è sporca, capito, sporca, e siccome in prima linea ci siamo io e tu, perché c'era anche, già l'hai visto, perciò io ho fatto fare, abbiamo deciso di fare così, perfetto, io sono solidale, d'accordo con te. Se lui insiste, si fa una telefonata a quella persona e si dice: signore Bill, facciamo subito quello che abbiamo detto, perché questa cosa non sta togliendo piedi. Certo, la prevenzione ci vuole sempre, è meglio andare così per tempo in queste cose, non si sa mai, sai com'è. Comunque, vabbè, adesso vediamo un po' se le cose continuano, se no si fa quello che si deve fare. Certamente. No, quegli amici passano sempre, dunque, anzi è venuto direttamente, mi ha informato, eccetera, eccetera, va bene, adesso vediamo un po' se le acque si calmano, non è il caso di andare lì a perdere tempo e fare, se invece le cose si ripetono, allora chiaramente io arrivo lì, non a piedi, ma arrivo possibilmente con l'aeroplano a fare quello che si deve fare, capito? Là. Sì, ma è giusto, se uno arriva con la mano a fare una cosa del genere, comunque la porta non è con un altro, quindi io per il mio però mi credo che tutto vecchio, se fa una fede, anche con le vasi, dico, ma è capito a fare quello che c'è, non sa cosa sta facendo, perché la problema è quella che la ha sentito. Lavoriamo comunque questi giorni, sembra tutto tranquillo, ogni tanto si fa sentire, ci fa capire che c'è, e noi siamo d'accordo con lui. Io dico solo che se lui ha qualche problema con qualcuno, battirlo, non c'è un problema, vuol dire anche in assieme che abbiamo un villaggio che l'ha, perché solo così io, se lui va a fare quello, vuol dire che mi sembrerà, mi farà con FSE, se volta. Certamente, è auguria. E poi tutto sommato adesso a questo punto io sto pensando fortemente con la stessa idea di Luca stesso, perché è considerato anche il segnale che arriva un amico lì che aveva detto alcuni giorni fa che non arrivava eccetera eccetera nessuno, quando anzi un meglio che sentiva anche senza l'antenna, e ho pensato di fare una passeggiata io in quei cipressi lì, e cosa è il risultato che l'antenna, nonostante quella persona nega di averla, io l'ho vista piazzata e c'è, e l'antenna c'è, non si dice di no, ed è proprio l'antennino e via, capito? Ma noi lasciamo le cose come stanno, se per effetto le cose dovessero andare avanti e dovrebbe continuare il sistema che si sta continuando, lui si assumerà le sue conseguenze, si assumerà lui la propria scelta, la propria cazzata, perché ti ripeto, ribadisco che tante cose si possono fare, ma quando si arriva a fare una cosa del genere come ha fatto lui è proprio da ignorante, capito? Perché dovrebbe capire che uno si tutela e che quindi lì subentra la magistratura, subentra insomma quello che deve subentrare. Quindi è stato anche un pochino incapace nel fare questa cosa, perché è chiaro che uno come te che ha un'attività soprattutto non si tutela, cazzo buffone, dici, si entra la mano uscì e ti lascia un messaggio, può entrare la mano, ma lasciate il burro anche di lui, buono. Appunto è quello, il problema era quello, non è l'altro. Non è che gli sta fatto lì il discorso di quello che ha lasciato, eccetera, no, assolutamente, quello abbiamo solo deciso che è un ignorante e basta, ma poi ci possono essere le conseguenze, certo. Comunque, avrei già detto, staremo a vedere, meglio andare avanti. Interessante che no. Io mi auguro che non proceda questa storia, perché chiaramente, però, sai com'è? Comunque, la prevenzione è stata presa, poi si fa dei conti in seguito, io la penso così. ero grido, e ci mancherebbe altro, avrà voluto rifiutare a dormire. No, non ce la faccio, no. Sono abbastanza sveglio, è un bel puro. Ci mancherebbe altro. Vediamo un po' se è rientrato Luca. Luca, ci sei? Carolino c'è, no, Luca. Luca mi pare ci sia allontanato, mi pare aver capito così. Avanti, Torellino. Ehi, buonasera Giulio, ben sentito. Da questa parte Torellino. Ciao Torellino, salutoni, ben sentito anche a te. Sempre bene, sempre forte, sempre chiara la radio di lusso, dai. Perfetta, riprendi ancora, vai. Ehi, Claudio, che apparato stai usando tu adesso? Che apparato sto usando? Il 144, perché c'è 140. Ma hai detto che c'è anche quello americano a 110, me la ricordi la marca di come si chiama? Guarda, questa radio ce l'abbiamo solo io, Walter e Daniele. Daniele c'ha il base, io e Walter ci abbiamo. Walter, vabbè, c'è anche il base, però ci abbiamo anche il veicolare. Il Jack Penny è un apparato americano 40 canali, con le bande laterali. Perché neanche io uno americano che mi è stato altro da Walter, che c'è il bordo in legno, e però non mi ricordo come si chiama, però mi sa che ha solo 23 canali con la manopola sopra. No, questo è un veicolare 40 canali, poi c'è la modifica CBTA, dove veniamo 80 sotto e 80 sopra. Bellissima radio, una ricezione, ti posso garantire che non ha niente da invidiare con gli altri miei radio, tanto è vero che io ce l'ho sempre acceso perché ha una ricezione favolosa, a differenza del Magnum, a differenza di tantissime radio, è veramente eccezionale, anche perché all'interno è tutto, come ho detto prima, a 110 volts, quindi è un apparato veramente molto molto selettivo, esce molto bene, se voi te lo faccio sentire col cane P3 esce veramente bene. L'unica cosa è che purtroppo aveva sul display, ho tolto il frontalino perché gli ho sostituito, volevo già farlo dall'inizio ma ne avevo voglia, stamattina l'ho preso e me lo sono fatto, gli ho sostituito il vetrino perché era in plexiglass, un po' consumato, gliel'ho rimesso nuovo, bianco, bello, pulito, fenomenale, il lavoro è uscito perfetto, però nel spostare la lampadina mi si è fatta mille un pezzo. E allora adesso ho il problema di come rialimentare la lampadina a 110, che è un problema. O gliela rimetto a 220, quindi la luce diventa sempre gialla, oppure adottiamo quel sistema dei 12 volts e ciccia. Gappa. No, perché adesso io non mi ricordo che marca è quello che ho io, ma io ti faccio sapere, ma tu non lo so, dai, non mi è mai interessato quella la marca. Ma è un budget oppure è piccolo veicolare? Questo è molto grande come veicolare, io penso che sia il veicolare più grande che abbia mai visto da quando io faccio radio, perché è largo almeno 25, ma è lungo più del 140, sarà almeno 40, 35-40 lungo. Scappa, no, il mio dovrebbe essere 40x40. Allora è un base, no, questo è un veicolare che praticamente, per far capire a Giulio, è grande quanto è largo, quanto è un LMS 200, così, però lungo molto di più, è molto pesante, è una bella radio. No, ma già lo risolvo. Adesso stasera, non lo so, ma domani mattina vedo di inserirle quella lampadina 220 che ho, se va bene lascio quella, altrimenti le faccio la trasformazione a 12 volts con un interruttore solo per lo smitter. Fatto bene, col pannellino dietro, vicino al DL, che c'è posto alla grande, le metto un interruttorino di quelli piccolini bellini, e quando lo accendo a 110 non faccio altro che dare l'alimentazione a 12 per lo strumento. Ed va bene lo stesso, non ci sono problemi. Gappa. Giulio, riprenditela, dai, che io ce la fa la consegna, che sta anche piovendo. Ok, riprendo io, allora, d'accordo, fai pure la consegna, poi ancora per qualche minuto, già sono qua, se fa in tempo, se no ci salutiamo già da adesso. E stavo dicendo qua, beh sì, conviene fare così, no, perché è un peccato avere l'apparecchio e ritrovarti lo strumentino a buio, è veramente un peccato. Invece, visto e considerato che ci sono queste possibilità, come riprendere il tutto, e allora si fa e basta, perché è giusto, come stai dicendo tu, c'è spazio in abbondanza, eccetera, dunque meglio di così. Se è possibile metterci anche un piccolo fusibile, che è meglio, dai, il fusibile non fa mai male, molto, ma molto leggero naturalmente, non pugni un chiodo rompe il fusibile, poi c'è bisogno che io te lo dica queste cose, capito qua? Bello, positivo. No, no, ma è che bellino da vedersi, dai. Non è questo granché di radio, però è tutto rosso davanti, c'è un bel frontale molto bello e mi secca vedere lo strumentino che non si illumina, dai. Si illuminava, però era molto basso, basso, basso, basso. E allora ho deciso di mettermelo a posto, adesso gli ho fatto il vetrino e va bene, adesso le farò anche lo smitter, non ci perdiamo in queste cose. Volevo capire come fare, ma tu hai fatto un'idea, va bene così. Adesso provo questa lampadina dello scaldabagno a 220, se è un pochino più bassa di amperaggio dovrebbe fare più luce, altrimenti non mi perdo in chiacchiere, faccio direttamente quel lavoro là. L'interruttore ce l'ho già trovato, quello piccolino che avevo comprato per mettere dietro uno strumento per alimentare lo stesso lo strumento stesso, e invece lo metto qui, le faccio due cavettini di quelli fini fini fini, lo porto all'alimentatore e le accendo quando voglio tenerlo acceso, lo tengo acceso praticamente, dai. Va bene Giulio, io ti saluto, sta piovendo, adesso mi traio un'oretta e poi un paio d'ore, poi faccio due giri di telefonate stasera e ci intaniamo da qualche parte, visto che fine settimana, a fare qualche festicciola di gruppo, dai. Ci sentiamo Giulio, grazie del show, grazie dell'info, grazie di tutto, ciao Torellino, Luca, chiunque fosse in ascolto sul canale 10, QRT per me. A stanotte se ci sei Giulio, a stasera, ciao ciao. Ok qua, ciao, ciao, salutoni, buon riposo, allora anch'io andato, adesso devo uscire, anche perché mia figlia mi ha chiesto se uscivamo prima, un pochino oggi, perché deve salire in un ufficio e dunque ha necessità di arrivare una mezz'ora in ufficio, se no per me andava bene anche alle 4, io di solito arrivo verso le 4 meno un quarto, le 4 in bottega, ma quest'oggi arriverò intorno alle 3 e mezzo suppongo, perché tra accompagnare mia figlia e tutto, dunque appunto proprio perché lì necessita a questo piccolo anticipo diciamo di orario. Vabbè, ciao qua, salutoni, allora a risentirci alle prossime, dai, vediamo un po' se stanotte posso fare quattro chiacchiere insieme a voi. Comunque la notte io già ascolto, quando ci siete, no, io sempre, tu lo sai, ho la stazione, ce l'ho qua in camera, però non posso di solito parlare per il semplice motivo che c'è la televisione, anche mia moglie segue la televisione, dunque se mi metto io in mezzo non capisce niente della televisione, allora desisto io da entrare per questa, però ascolto e ascolto sempre. Vabbè, ciao ancora qua, alle prossime, buon riposo, ciao. Ciao Giulio, allora quando c'è le cuffie perdonami, perché la notte ci stiamo scatenando di combo di cacciate, dai. Già ci sentiamo, ciao. Non è un problema, ci mancherebbe. Va sempre bene tutto, è interessante rispettarsi, tu il resto ha poca importanza, intanto le parole, guarda, le diciamo e quelle parole stesse che diciamo alle volte ce le porta via al vento, non ci sono problemi, poi ognuno si comporta come crede, come vuole, chi non vuole ascoltare spegne e basta. E un po' di cuffie ascolto quando le voglio ascoltare, quando sonno chiudo e via. Ciao, ci sentiamo, ciao alle prossime. Ciao Giulio, ciao ciao, io ho giubilato di vestirmi, non me la funziono da ormai, non mi interessa niente. Sono qua vino e qua mi diverto, ciao! Ok qua, d'accordo, ci sentiamo, ciao ciao, ciao!